in primo piano. Come al solito, il lunedì, anche in questo lunedì 14 giugno, non c'è una notizia sulle altre che domina, si viene dal weekend, si riparte un po' stancamente. Allora, c'è chi sceglie l'economia, il Sole 24 Ore del lunedì punta sulle pensioni, una riforma continua. Da qui al 2015 la vita lavorativa si allungherà nei fatti anche fino a 18 mesi, tutte le novità di quello che succederà nei prossimi 5 anni sul fronte previdenziale. La Stampa: Tremonti sfida le regioni, tagli hanno già avuto tanto, ora tocca a loro, con i governatori in rivolta. E poi c'è tutta questa polemica sull'inno, niente inno, bufera su Zaia per Repubblica. Il Messaggero: la Lega vieta l'inno di Mameli. Per il Giornale: l'inno di Zaia, le battute del Cavaliere. Berlusconi si è concesso una domenica in Bulgaria e in Libia, davvero scoppiettante, vedremo nelle battute. Corriere della Sera: il Belgio, il voto all'estero, Belgio, il voto scuote lo Stato, successo dei separatisti fiamminghi, ora si cambia. Per l'Unità invece: uomini che odiano le regole, sono Berlusconi, Tremonti e Sacconi messi in prima pagina. Allora, io partirei da questa vicenda dell'inno. L'inno di Mameli. Doveva essere una domenica tranquilla anche per il presidente della regione Zaia, Veneto, regione Veneto. È andata a inaugurare una scuola elementare, a Fanzolo di Vedelago, provincia di Treviso. E che è successo? È successa questa polemica clamorosa perché è stato suonato il vapensiero. L'inno di Mameli è stato suonato, sì o no? Questo è il giallo. Certamente è stato suonato prima il vapensiero. Va pensiero al posto di Mameli, bufera su Zaia, centrodestra diviso. La Lega umilia l'inno di Mameli, pagina 3 del Messaggero, con La Russa e Ronchi che parlano di oltraggio grave. Ma che è successo? Poi non si capisce neanche bene veramente se questo inno di Mameli sia stato suonato oppure no. Certo, Luca Zaia, presidente del Veneto, a pagina 3 di Repubblica si difende in un'intervista concessa a Paolo Berizzi dicendo: è una balla colossale, io amo il tricolore e certi miei alleati riposino il cervello. Intanto inizia l'intervista con Zaia costretto a canticchiare, a fischiettare al telefono l'inno di Mameli. È una marcetta facile, fischietto bene anche il vapensiero, sa, e molte altre opere sono must nazionali. E allora, che è successo, presidente Zaia? Quello che dicono è una balla colossale, cioè il fatto che io avrei fatto sostituire l'inno di Mameli con il vapensiero, una balla colossale che sarebbe da impeachment. Glielo dice un presidente di regione che ha giurato sulla Costituzione, vorrebbe dire che sono impazzito di colpo, per questo mi stupisco, mi offendo di fronte a certe dichiarazioni. Allora, che è successo in quella scuola? Ma niente, l'inno di Mameli è stato eseguito alla fine della cerimonia, lo ha confermato anche il maestro del coro, 60 elementi, tutti adulti. Alcuni però giurano di non averlo sentito, può essere che qualcuno stava dall'altra parte del piazzale e non abbia sentito. E poi le dichiarazioni degli alleati di Zaia, fatto grave, oltraggio alla nazione, comportamento distruttivo, ecco cosa hanno detto per esempio La Russa, Ronchi e Crosetto. Sono uomini scafati, risponde Zaia. Se si sono fatti fregare da una domanda perniciosa di un giornalista, è meglio che si prendano un po' di vacanze e si riposino il cervello. Ronchi è venuto da me settimana scorsa, in ufficio c'era il tricolore. E poi insomma Zaia parla un po' del rapporto tra la Lega, la Nazione, l'Italia. Il dibattito Mameli va pensiero non l'abbiamo inventato noi. Nell'81 Tortora lanciò un sondaggio a Portobello e la maggioranza degli italiani avrebbe preferito intonare le note di Verdi. Il suo sentimento patriottico ce l'ha? Vengo da una terra dove, come disse Don Sturzo nel 49, siamo unitari e federalisti impenitenti. E riguardo la Nazionale, terrò l'Italia, tengo sempre l'Italia e se vince sono pronto a stappare il prosecco. Se invece però veniamo eliminati, tiferò Brasile, perché mio nonno del 1896 è nato là. Insomma, Berlusconi minimizza. Che è successo con questo inno non si è ben capito. Intanto Berlusconi minimizza, sdrammatizza da dove? Da Sofia. Ieri Berlusconi si è concesso un doppio viaggio. Prima è andato a Sofia dal premier bulgaro, Boyko Borisov, immortalato nelle fotografie per inaugurare una statua dedicata a Garibaldi in una piazza di Sofia. Ebbene sì. E poi è andato a Tripoli, dove ha incontrato Gheddafi, dove è riuscito a risolvere una vicenda legata innanzitutto a tre pescherecci che sono stati sequestrati, tre pescherecci italiani, e poi anche alla liberazione di un cittadino svizzero che era da mesi e mesi trattenuto in Libia, non poteva rientrare. Ma soprattutto quello che mi interessa è lo show di Berlusconi, allora raccontato da tutti i giornali, ieri a Sofia, sentite che cosa ha detto, da quando, ha parlato soprattutto di donne, è irrefrenabile, incontenibile in questo ambito. Da quando mi sono separato ho la fila fuori, tutte mi vogliono perché non sono scemo, sono simpatico, ricco e posso campare fino a 120 anni. Nessuno fiata, tutti ascoltano rapiti, racconta il Corriere della Sera. Intanto si esibiscono alcune giovani molto avvenenti e procaci. C'era anche Vittorio Sgarbi, il sindaco di Salemi. E Berlusconi poi osserva un cartellone pubblicitario che stona in quell'angolo di quel ristorante dove sta pranzando con il premier bulgaro, suggerisce di rimuoverlo al sindaco di Sofia. E poi che dice ancora? Gli si avvicina un'avvenente ragazza. Signorina, non si deve preoccupare, sono di nuovo single, dice Berlusconi. E poi anche in piazza, terminata la cerimonia, una graziosa ragazza gli si era avvicinata chiedendole una fotografia e lui sussurrandole: sei una fata, peccato soltanto una foto. E questo, tra l'altro, Repubblica racconta nel gallismo. Si trova perfettamente con il premier bulgaro Borisov, uno che sembra un gigante, è stato una guardia del corpo, dovreste vederlo nelle foto. Borisov, sapete che ha detto? La sua dichiarazione storica, il premier bulgaro in passato è questa: da noi le lesbiche non ci sono e quelle poche che ci stanno lo sono perché non hanno conosciuto me. Questo è il premier bulgaro, una delle dichiarazioni epocali. E ancora Berlusconi ha parlato anche di cose ben più serie, è tornato sul tema: io non ho potere, io godo dei pochi poteri di cui gode il capo del governo, limitato da una costituzione figlia delle preoccupazioni derivanti dall'esperienza della dittatura fascista. Invidiando per questo a il premier Borisov, che lui per tutto il pranzo ha chiamato Boris, invidiandogli la determinazione con cui può attuare le sue decisioni. E invece io denuncio, io invece non ho potere. Questa è la domenica di Berlusconi. C'è da dire che ancora sui giornali ferve il dibattito sul tema delle intercettazioni, il disegno di legge intercettazioni. Ora sono soprattutto i finiani che non arretrano, cambiare o si rischia l'incostituzionalità. Per esempio anche Italo Bocchino fa un'intervista a Pagina 7 della Stampa, molto vicino a Fini, sappiamo anche la recente, diciamo, i contrasti all'interno del PDL. Il finiano Bocchino: ecco le condizioni per la pace nel PDL riguardo a cosa va cambiato. Per esempio, ci sono profili di irragionevolezza nel meccanismo di proroga delle 72 ore. Potrebbero esserci profili di incostituzionalità nel divieto di pubblicare notizie non coperte dal segreto istruttorio, per le quali prevale il diritto di cronaca. E ancora, se devo catturare Sandokan, a dire il capo dei casalesi, si deve poter continuare a mettere una cimice nella macchina della moglie? E se non vi ascoltano, questa è la domanda di Fabio Martini a Italo Bocchino, prendere o lasciare? Noi prendiamo, più leali di così. Poi parla Italo Bocchino anche delle grandi riforme sulla giustizia, per esempio la separazione delle carriere di magistratura. Sì, dice Bocchino, questo è indispensabile, ma siamo assolutamente contrari a subordinare il PM all'esecutivo. Insomma, c'è grande dibattito su questo tema, il tema delle intercettazioni. Il Corriere intervista per esempio il procuratore di Venezia Vittorio Borraccetti, che è molto duro e parla di DDL intercettazioni come grande imbroglio, e anche come le proposte annunciate dal ministro Alfano di riforma della giustizia sono tutte proposte molto negative. In questa intervista al Corriere, per esempio sulla separazione delle carriere, perché è negativa, gli si chiede al procuratore Borraccetti. Continua a pensare che l'esito obbligato sarebbe la sottoposizione dei PM all'esecutivo. Il no alla separazione non è un tabù o un dogma, ma non possiamo prescindere dal contesto storico. Mi scusi, ma se a proporlo fosse un governo di centrosinistra, la risposta sarebbe la stessa. E, tra l'altro, Borraccetti poi dice anche una cosa che certo può far discutere per chi segue la giustizia. La giustizia disciplinare, sfatiamo un luogo comune, la giustizia disciplinare del CSM, cioè il CSM che giudica i magistrati, è una delle più severe. Procedimenti e condanne sono in numero rilevante. Semmai c'è il problema contrario, un eccesso di iniziativa disciplinare. Ma insomma, sul tema delle intercettazioni, tra l'altro, ritorna Giuliano Ferrara nell'editoriale del lunedì del Foglio. Giuliano Ferrara è uno dei giornalisti che più difende questa legge. La grande guerra contro il bavaglio è solo fuffa per lettori gonzi. Questo è il titolo dell'editoriale del lunedì di Giuliano Ferrara, che scrive: a me il potere piace, mi sembra utile alla società, non privo di una sua intrinseca dignità, e questo sono tra i pochi a dirlo e a scriverlo contromano da decenni in un paese in cui il disprezzo generico e qualunquista del potere si fa commedia da secoli. E parla appunto di coloro che stanno portando avanti la campagna contro la cosiddetta legge Bavaglio. Non solo confondono le acque i tribuni della campagna faziosa e squinternata per il diritto a origliare, mettono di mezzo i sospetti mafiosi, che invece possono essere intercettati come prima, fanno del catastrofismo grottesco, lasciandoci credere che non si potrà più indagare, quando è evidente il contrario, che la giustizia penale, autorizzata a intercettare secondo un codice, ma non ad annegare liberamente in centinaia di migliaia di pagine di origliamenti spesso farseschi e tragicamente negativi per le vite degli altri, sarà protetta da un mercimonio di nastri capace di condizionarla e virtualmente abrogarla. Non basta questo, è che con la loro campagna grandi direttori e grandi firme affermano un'idea manipolatoria della libertà di stampa e del rapporto tra giornali e lettori. Insomma, la definisce tutta fuffa, esca per lettori gonzi che abbondano. Questo Giuliano Ferrara sul Foglio. Il tema delle intercettazioni, certo, ce lo riportiamo sui giornali, con anche un taglio per esempio molto interessante che troviamo a pagina 18 del Sole 24 Ore. Nessuno ne parla, insomma pochi ne parlano di questa vicenda, lo fa Francesca Barbiero. Il tema intercettazione dal punto di vista pratico, cioè che vuol dire intercettazione? Vuol dire che ci sono delle società che per il Ministero della Giustizia, per i magistrati, intercettano. E allora, quanto costa ciuffare un latitante? Tra intercettazioni telefoniche e ambientali, difficilmente meno di 800.000 euro. A fornire dispositivi e materiale, a mettere a disposizione ai professionisti il know-how, a lavorare fianco a fianco con le forze dell'ordine, sono 120 aziende in Italia con 1.200 dipendenti che ora sono al collasso. Il motivo, da una parte il disegno di legge, ma l'altro motivo molto più pratico è che, come tutte le imprese che lavorano con la pubblica amministrazione, non arrivano i pagamenti. I pagamenti arrivano a 6 mesi, a un anno, quando vengono pagati. Fino al 2006 il pagamento veniva anticipato dalle Poste. Ora che si passa il saldo tocca la Banca d'Italia, si è arrivati a un debito di 500 milioni di euro, fatture non pagate anche dal 2003. Cioè, questo è il lato nascosto delle intercettazioni, cioè le società che fanno le intercettazioni materialmente per il ministero, per i magistrati, insomma, e non vengono pagate. E questo è un problema di tutte le imprese che lavorano con la pubblica amministrazione. Quindi anche queste, debiti di 500 milioni di euro accumulati. Ovviamente la denuncia è di Walter Nicolotti, che è il presidente dell'associazione di categoria che raggruppa una cinquantina di queste aziende che fanno intercettazioni. Scajola e Bertolaso hanno sbagliato. Io ho solo avuto favori. E che male c'è? Così parla l'ex ministro Lunardi, lo fa in un'intervista di 2 pagine, 14 e 15, a Repubblica, a Corrado Zunino, perché ieri Repubblica ha accusato, insomma ha detto, anche Lunardi ha ricevuto dei lavori gratis da Diego Anemone, uno della cosiddetta cricca. E Lunardi si difende in questa intervista, dice, parte così intanto: l'ex ministro Scajola si è fatto comprare la casa da Anemone, e questa è una cosa scorretta per non dire altro. Bertolaso è maggiorenne responsabile, se si è fatto pagare l'affitto da quel costruttore ne pagherà le conseguenze. E lei invece, Lunardi? Io invece sono una persona corretta. E parla al limite di favori, di aiuti. Per esempio, la ristrutturazione della casa di Parma, di Lunardi, fatta da Anemone. Sì, doveva sdebitarsi con me. Che significa sdebitarsi? Io lo avevo aiutato ad acquistare i terreni della Banca di Roma su cui avrebbe edificato il futuro Salaria Sport Village. E dice, ma perché l'ha aiutato a comprare i terreni? Ho fatto una telefonata a un funzionario della Banca di Roma in mezzo a 100 cose che un ministro con 4 dicasteri sulle spalle doveva fare. Perché con 4 dicasteri si sente in dovere di raccomandare gli affari di Anemone? Chiede Corrado Zunino. Perché era un amico di Balducci, un mio funzionario. E quindi Anemone si è sdebitato facendo dei lavori a costo di mercato nella mia villa a Parma. E poi parla un po' di tutto. Sono due pagine in cui vuole difendere, snocciolando tutti i dati, tutte cose, anche un po' a seguirle si fa un po' fatica. Per esempio, perché lei ha preso in affitto una casa a Roma? Una casa a Roma. Dice, arriva Balducci e mi dice, propaganda fide, vale a dire questa emanazione del Vaticano, sta mettendo a reddito i suoi 2000 appartamenti. Lui, Balducci, insieme al presidente del TAR Delise e all'avvocato Leo Zappa, genero di Delise, gestiva quel patrimonio. Al che l'intervistatore dice, scusi, un alto funzionario delle opere pubbliche e un alto magistrato amministrativo gestiscono le case del Vaticano? Sì, risponde Lunardi, a tempo perso uno può fare ciò che vuole. A Roma tutti fanno 3 o 4 lavori, no? E così Lunardi si difende e dice, io ho solo avuto favori, che male c'è? E poi però la presa di distanza da Scajola e Bertolaso, che dice, hanno sbagliato, Scajola si è fatto comprare la casa, è una cosa scorretta per non dire altro. E vabbè, insomma, il tema della cricca. C'è anche molto di economia, come detto ieri il ministro Tremonti ha difeso la manovra e soprattutto ha detto basta le regole che bloccano le imprese, la guerra, la burocrazia, ogni anno produciamo 4 chilometri di regole. Si legge a pagina 4 del giornale. E come detto, riguarda la semplificazione, tra l'altro oggi il Sole 24 Ore a pagina 5 mette in pagina alcuni elementi interessanti su cui si sta studiando. Semplificazione in 3 mosse, Giovanni Parente, nel piano per ridurre la burocrazia coinvolte anche le autonomie locali. Quali sono? C'è tutto il percorso che starebbe mettendo appunto il governo per sburocratizzare l'Italia, insomma, a favore delle imprese. 3 i fronti su cui si sta lavorando per abbassare il carico di vincoli amministrativi che frenano proprio il sistema produttivo. Una delle modifiche è quella dell'articolo 41 della Costituzione. Il secondo punto è quello parlamentare, per esempio con l'approvazione di leggi ordinarie per dare una sforbiciata al carico di oneri che frenano la competitività, e il terzo è il rilancio dello sportello unico delle attività produttive presso i comuni, dunque anche perché la semplificazione può avvenire anche coinvolgendo le autonomie locali. Ma certo, molto di economia c'è anche su quello che sta avvenendo a Pomigliano. Vi ricordo, c'è cioè il futuro della Fiat, ne parlerà Oscar Giannino tra l'altro alle 9. La vicenda Pomigliano è una vicenda, se si vuole, abbastanza complessa ma anche abbastanza semplice. Sostanzialmente l'amministratore delegato di Fiat Marchionne, ci sono in ballo 700 milioni di investimenti per trasferire la produzione della Panda dalla Polonia all'impianto di Pomigliano d'Arco, dunque in Campania. Che cosa? In cambio di che cosa? In cambio però di una intensificazione di turni, di straordinari e soprattutto di una stretta sull'assenteismo, un assenteismo che anche lo stesso Guglielmo Epifani della CGIL ha detto, beh, si sono registrati effettivamente tassi anomali di assenteismo in quello stabilimento di Pomigliano, per esempio in prossimità delle elezioni amministrative. Ora questo accordo si farà oppure no? Tutti i sindacati hanno detto sì sostanzialmente, tranne per ora la FIOM CGIL. E dunque tutti gli occhi sono puntati sulla FIOM CGIL. Pagina 7 di Repubblica, il dilemma storico per la CGIL. Si legge, i loro nomi magari non dicono nulla ai più, ma Michele Gravano e Peppe Enrico potrebbero diventare i sindacalisti chiave nella delicatissima vicenda per la sopravvivenza dello stabilimento di Fiat a Pomigliano d'Arco. Il primo è il segretario della CGIL Campania, il secondo quella di Napoli. Entrambi sono tra l'altro ex operai proprio di Pomigliano ed entrambi nei giorni scorsi hanno detto è il momento di assumersi le responsabilità all'altezza della storia della CGIL meridionale. Che vuol dire? Il tema è questo: può la CGIL o la FIOM CGIL con il suo no in qualche modo assumersi la responsabilità di far chiudere definitivamente i cancelli della fabbrica campana? E questo è il dilemma che la FIOM CGIL si appresta questa settimana ad affrontare. Oh, che dire, siamo in chiusura. Comunque, ripeto, Oscar Giannino se ne occuperà alle 9. Le ultime due segnalazioni: Frattini, il ministro, si è sposato il ministro Frattini con Stella Coppi, 33 anni, di Carpi, figlia dell'ex presidente della Federazione Italiana Sport Invernali Gaetano Coppi, e infatti si sono sposati in una baita in Valbadia. Galeotto fu lo sci. E infine, che dire, devo segnalare in chiusura, penso ci sia tempo, sì, 10 secondi, Peter mi fa così così. Beh, la prima pagina della Gazzetta dello Sport, azzurri, ricordate, i campioni siamo noi, spaccate il mondo, a pagina 2 e 3, d'altronde oggi anche l'Italia scende in campo questa sera ai mondiali alle 20:30 contro il Paraguay. E allora ci fermiamo.